io questi cacchio di uccellacci che fanno politico a collo, ci sta. Cava, non sono freddo, freddo, perché gli altri alimentatori sono piccoli. Quello è l'unico da Trento che c'ho. Cosa vuoi ti dica? Vabbè, c'è anche l'altro, che ancora non sono riuscito a provarlo, la rosariccia, ma non so se ce la fa a reggerlo. È molto, molto fastidioso, nel senso che ti copre un po' la colazione. Devo stare attento a ciò che le dici, perché sennò ti perdo qualche cosa. No, io ho lo stesso problema quando ero l'altro giorno, cioè a casa di mamma, avevo un alimentatore dell'alfa elettronica, però era più che altro alternata. Quando la mettevo a fianco al 140, mamma mi raccoglieva tutto. Allora ho deciso, l'ho messo in basso, in terra, da una parte, quindi lui sì, diciamo che faceva un po' di alternata, però non la trasmetteva nella radio, capito? Bisogna trovare dei compromessi poi. Perché poi è bello questo alimentatore, quando va in trasmissione, no? Allora lui la mette in giro le ventole, stacchi la portante, boom, e si abbassano i giri della ventola. È così. Cosa ci vuoi fare? A meno che hai la possibilità di metterlo in terra, con qualche cavo un pochino lunghetto e te lo allontani, dai. È già in terra, sì, anzi adesso un po' l'ho ammutolito perché era su una mensolina, diciamo, con dei piedi alti 15 centimetri neanche, dai, e vibrava. Adesso invece proprio si sente il ronzio. Sì, vabbè, fa poco la radio la ventola, ma quella è proprio è proprio rumorosa. Domani facciamo altri esperimenti. Un attimo di bianco, un tic, mi hanno chiamato giù, aspetta. Sì, fai, dai. Devo cambiare la radio e farmi due prove. Thank you. senti, ma tiro, ci sei? Sto provando un amplificatore. Cava cava, cava cava. Com'è? Cosa ti sembra, a parte rumori familiari? Fai un passaggio più lungo, sì. Così sembra buona. Aspetta, provo a cordare. Sì, dai, dovrebbe essere già accordato perché ho la televisione alta. Sembra che vada bene. Anzi, tu gli sembra, va bene. 9:20 è radio buona. Non è in saturazione, è vero? 1, 2, 3, prova. Prova il microfono. Sembra appena, ma impercepibile, sì. Io ti ascolto sempre bene. Vabbè, comunque sta pompando, sembra così, ma sta andando bene. Aspetta che provo a guardare ancora un po'. Bene, così dovrebbe essere a posto, Cava, guarda un po' adesso T, com'è invece la mia modulazione? Va bene, poca, troppa, cos'è? Guarda, si sente abbastanza, è molto. Più di questo non posso scendere, T. Aspetta un secondo. Guarda adesso, se no aumento di nuovo, aumento dalla radio e non dal microfono. No, la radio va bene, è che è sempre questo rumore di sottofondo che diciamo che sì, fa parte della radio, però è molto... aspetta, se riesco a farlo... vediamo se riesco a farlo sentire io qua. Allora, aspetta, Senti. Non so se lo senti. Si conferma, sì, si conferma. Domani provo l'altro alimentatore, dai. Provo l'altro, se lo regge. Quello dovrebbe essere più silenzioso. Se no questo non so dove capita poterlo mettere. Ma al limite puoi benissimo chiuderlo in un... Io ho un mobiletto con dei vetri, infatti quando accendo lampade lì che metto le ventole è chiuso, infatti guarda, aspetta, vediamo un po' se riesco a farti sentire. Aspetta, così è aperto il mobiletto, così è chiuso, proprio là se lo sentivo spesso. Non si sente più di tanto. E adesso invece sì, che lo sto tenendo in mano un po' lontano, si sente, è vero? Si sente, però la premurazione lo copre, quindi diciamo che può quasi andare bene. Come risuona, come l'appoggio in terra nel legno, capito? Poi lo inizia a fare il drone, cavolo, quello non è un alimento, io sono un drone. infatti, io voglio dire, c'è la ventola attaccata, ma è già leggera, neanche la senti tu, guarda. No, già è silenziosa. È silenziosa, sì. Dove ti cavano i microfoni preamplificati, è un macello. È un macello. Domani già cerco di organizzarmi, dai. Vediamo se riesco a fare, che qua è un manicomio, sta diventando, guarda. Spero se c'è la parola. Vabbè. Guarda il segnale, Daniele, che è sul sacco, così mi dai un riferimento. Così è attaccato, ok, adesso lo metto a metà. quindi questo è il primo passaggio, questo è il secondo. Allora sì, vabbè, prima le 9:20, poi tornando indietro hai fatto 9:15, 9:10 hai fatto 9:20, 9:15 e 9:10 quasi. Vabbè, così non c'è niente comunque. Com'è il primo passaggio? Questo? Questo è il primo passaggio, dai. Allora così sei, 9:10 con picchi di 9:15 modulati. Ehi, allora, va bene, ma così è, diciamo che sono solo i fatti della radio, va bene. Sì, è buona anche la radio adesso, prima era troppo, eri compressa, dai. Già va bene adesso, forte e chiaro. Ehi, va bene, c'erano 600 watt, non è che erano appena appena. Cava, già funge. Cava, anche sto usando pochi qua adesso. Ciao, divertitela. Ehi, ciao a te. Ciao, Valeria, ciao.